Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che mette al centro dell'attenzione gli animali non umani. È un programma di attualità, di notizie, di cultura e lavora alla costruzione di un nuovo paradigma di interpretazione della vita e del mondo, in un'ottica di cooperazione e di convivenza pacifica fra specie diverse, fra gli umani e gli altri esseri viventi. È la puntata numero 679 e parleremo di insetti, della smodata voglia di uccidere gli animali selvatici, di allevamenti e di visioni del futuro. Gabriele Palloni, come ogni settimana, proporrà una ricetta legata alle notizie della puntata. La colonna sonora è affidata alle competenti scelte di Gianluca Masala. Parliamo troppo poco di insetti e stiamo sottovalutando le catombe che stanno subendo, con un'ondata di estinzione di specie che dovrebbe allarmare e invece passa inosservata. Uno studio curato da Shawan Chowdhury, biologo della conservazione al Centro Tedesco per la Ricerca sulla Biodiversità Integrativa, uno studio pubblicato sulla rivista One Earth, rilancia un allarme ben noto ai ricercatori e si sofferma in particolare sulla necessità di proteggere le specie più a rischio. Oltre l'80% di tutti gli animali sono insetti, dice Chowdhury, eppure gli insetti costituiscono solo l'8% delle specie valutate nella lista rossa IUCN, il più completo inventario del rischio di estinzione per le specie a livello globale. È giunto il momento, dice il ricercatore, di prendere in considerazione gli insetti nelle valutazioni di conservazione. Come sappiamo, gli insetti svolgono ruoli cruciali in quasi tutti gli ecosistemi. Impollinano oltre l'80% delle piante e sono una delle principali fonti di cibo per migliaia di specie di vertebrati. Eppure, le popolazioni di insetti stanno crollando in tutto il mondo. Tra le specie non protette, precisa lo studio, figurano diversi insetti in pericolo imminente di estinzione, come la formica dinosauro, la libellula hawaiana cremisi e la falena tigre imbrigliata. Stanno cambiando così tante cose nel mondo degli insetti che le stesse piante carnivore sono costrette a cambiare le proprie abitudini alimentari. La scoperta si deve a un gruppo di ricerca internazionale guidato dall'Università di Bayreuth in Germania. Lo studio è stato pubblicato sugli Annals of Botany. Succede in particolare che alcune specie di piante carnivore abbiano reagito a modo loro alla diminuzione del numero di insetti, con l'aumentare dell'altitudine nelle montagne tropicali. Una condizione che intensifica la competizione in alta quota fra specie vegetali specializzate nella cattura di insetti, come importante fonte di nutrienti. Così, nelle regioni montuose del Borneo, alcune specie di piante carnivore, in particolare le Nepenthes, hanno cambiato la dieta. Con le loro trappole, che in origine servivano a catturare gli insetti, ora catturano gli escrementi dei mammiferi e sono quindi ancora meglio rifornite di sostanze nutritive rispetto a prima. Per cambiare la loro dieta, le piante carnivore hanno convertito le loro trappole. Prima attiravano e intrappolavano gli insetti con colori e siccità. Ora i loro nettari, che secernono zucchero, invitano i piccoli mammiferi originari del Borneo a depositare le loro feci all'interno delle trappole stesse. Questo cambiamento di funzione, spiega il biologo Gerhard Gebauer, che ha guidato la ricerca, è un esempio sorprendente di come le piante siano in grado di adattare in modo creativo la loro dieta. Tali sviluppi, dice il ricercatore, dovrebbero essere studiati più dettagliatamente in futuro, perché le conoscenze acquisite aiuteranno a proteggere meglio le piante in condizioni ecologiche e climatiche mutate. What if birds aren't singing? that's screaming. A proposito di comportamenti che in natura forzatamente cambiano, c'è da considerare anche il forte aumento della presenza umana, sia pure di passaggio, nelle aree di montagna. Gli escursionisti magari sono mossi dalle migliori intenzioni, ma per gli animali selvatici la presenza umana è sempre un motivo di allarme. Un allarme, ai noi, assai ben fondato. Ebbene, uno studio del Museo delle Scienze di Trento e dell'Università di Firenze dimostra che le specie selvatiche nelle aree alpine tendono a diventare più notturne per diminuire la probabilità di incontrare persone. La ricerca ha utilizzato 60 fototrappole ogni estate a partire dal 2015 in un'area delle Dolomiti del Trentino occidentale, un'area altamente frequentata da escursionisti, e ha rilevato i passaggi di animali e persone. I risultati, spiega Marco Salvatori, primo firmatario dello studio, ci mostrano che delle oltre 500.000 foto raccolte in 7 anni di ricerca, il 70% ritrae persone e il tasso di passaggio umano di fronte alle fototrappole è stato 7 volte superiore a quello della specie selvatica più comune nell'area, la volpe, e addirittura 70 volte superiore a quello dell'orso, la specie più raramente fotografata. Le 8 specie considerate, che erano orso, cervo, camoscio, capriolo, tasso, volpe, lepre, faina, hanno rivelato una chiara risposta comportamentale al disturbo provocato dal passaggio delle persone. Nelle zone più frequentate, questi animali diventano più notturni, in modo da minimizzare il rischio di incontrare umani. La morale di questa ricerca è espressa da Francesco Rovero, coordinatore del gruppo di studiosi. Se da parte degli animali, dice Rovero, l'impegno a evitare il contatto con gli esseri umani è notevole, ora sta anche a noi umani fare attenzione, adottando alcune misure per limitare l'accesso ad alcune aree dei parchi naturali nei periodi dell'anno più delicati per gli animali. Una strategia ampiamente applicata in molte parti del mondo. One day. Just hold on to me. Just hold on to me. Non è ancora detta l'ultima parola sulla cosiddetta caccia selvaggia, cioè il via libera dato dal governo italiano, con la legge di bilancio, alla possibilità di uccidere animali selvatici in luoghi e in tempi normalmente proibiti, come le aree urbane, i parchi protetti e in periodi di chiusura della caccia ordinaria. EMPA, LAC, LAV, Lega Ambiente, LIPU e WWF, quindi le maggiori associazioni animaliste e ambientaliste del paese, hanno reso noto che la Commissione europea, in particolare la Direzione Generale Ambiente, ha inviato all'Italia una lettera dai toni perentori in merito all'approvazione dell'emendamento caccia selvaggia, quell'emendamento appunto che ha reso possibile l'uccisione di animali selvatici nelle aree protette e nei periodi in cui la caccia è vietata. La lettera della Commissione, dicono le associazioni, è una conferma di quanto abbiamo denunciato. Questa norma si pone in aperto contrasto sia con le direttive europee sia con la Costituzione italiana e rende concreto il rischio di attivazione di una procedura di infrazione che peserà sulle tasche di tutti gli italiani. In sostanza, il governo avrebbe agito consapevolmente in violazione delle norme europee pur di affrontare con lo strumento della doppietta la presunta emergenza selvatici, facendo contenta la potente lobby dei cacciatori. La portata di questa lettera, dicono ancora le associazioni, va oltre l'ormai famoso emendamento caccia selvaggia e coinvolge l'intero approccio filo-venatorio del governo e di molte regioni, che porta ogni anno all'approvazione di calendari venatori che, dopo essere stati impugnati dalle associazioni ambientaliste, vengono puntualmente dichiarati illegittimi dai giudici amministrativi per violazione dei principi di tutela ambientale. L'emendamento caccia selvaggia, insomma, è al centro di una vasta contesa e continueremo a parlarne. 420 years ago, I come into this life, the son of a woman and a man who lived in strife. He was tired of being poor, and he wasn't into selling door to door, and he worked like the devil to be more. A different kind of poverty now upsets me so. Night after sleepless night, I walk the floor and so alone. Where is my woman? Can I bring her home? Have I driven her away? Is she gone? Morning comes the sunrise and I'm driven to my bed. I see that it is empty and this devil's in my head. I embrace the many-colored beast. I grow weary of the torment. Can there be no peace? And I find myself just wishing that my life would simply cease. A proposito di produzioni, di consumi, di cambiamenti necessari per affrontare l'emergenza climatica e in particolare sul tema degli allevamenti e delle strategie economiche che li riguardano, ascoltiamo un servizio di Francesco Panier che paragona la situazione italiana a quanto sta avvenendo in altri paesi. Oggi il settore agricolo e zootecnico sono alle prese con un aumento dei costi di produzione dovuto al picco dei prezzi del gas, al rallentamento delle forniture di mangimi dall'Ucraina e agli effetti della crisi climatica sui raccolti e sulla produttività degli animali. L'agricoltura industriale e ancor più l'allevamento si rivelano settori antieconomici di fronte ai grandi sconvolgimenti ecologici e sociali. Invece di immaginare una radicale trasformazione, i governi restano a guardare e i gruppi di interesse chiedono di revocare regole e controlli sulle performance ambientali delle loro produzioni. Di recente la Coldiretti ha nuovamente attaccato la direttiva europea sulle emissioni industriali che, e qui cito integralmente, finisce per equiparare una stalla con 150 mucche a un inceneritore o a una fabbrica altamente inquinante, andando a colpire circa 180.000 allevamenti ed esponendoli al rischio chiusura. In verità questa norma copre appena il 13% delle aziende agricole europee solo a partire dal 2029 e non fa altro che vincolare il rilascio dell'autorizzazione ambientale a un miglior monitoraggio dell'inquinamento di aria e acqua. Troppo poco e troppo tardi, secondo noi, ma soprattutto, ancora una volta, chi pensa al futuro e ne scrive i contorni si concentra sulle molecole di gas serra e non tiene in considerazione la necessità e i diritti delle forme viventi non umane. Anche noi, tuttavia, che pure conserviamo un approccio di liberazione totale degli animali dal giogo delle società umane, dobbiamo cercare di affrontare il problema anche con piglio pratico, che resti coerente con i nostri ideali, ma capace di tracciare una strada perlomeno visibile. È un'impresa complicatissima, me ne rendo conto, perché anche l'ambientalismo rifiuta qualunque discorso etico per evitare di perdere una piattaforma di dialogo con la politica. I movimenti ecologisti riescono al massimo a promuovere una riduzione della produzione di carne e derivati, così da abbassarne l'impatto ambientale. Qualche risultato da questo punto di vista lo stiamo vedendo. Ad esempio, l'Olanda, dopo una sentenza del Consiglio di Stato, si è data un piano di riduzione degli animali allevati con compensazioni per gli allevatori. Pur non avendo nulla di etico, questo programma è un unicum a livello mondiale, perché comprime per legge un settore produttivo ritenuto insostenibile per l'ambiente. Gli allevatori sono sul piede di guerra e probabilmente riusciranno, almeno in parte, a mandare a mollo il progetto del governo. Tuttavia, per noi, questo rappresenta un punto su cui interrogarci e provare a sviluppare un ragionamento. Sarebbe interessante, cioè, se economisti, agronomi, scienziati sociali, attivisti, tutti con un approccio antispecista, provassero a disegnare uno scenario più ambizioso in cui la collettività, lo Stato, si compra tutti gli animali e li affida a chi sul territorio può ospitarli degnamente, accompagnandoli verso morte naturale senza più riprodurli a forza. Agli allevatori, con un moto mandeliano potremmo dire di pacificazione, andrebbe un compenso generoso per riconvertire la produzione a proteine vegetali, in particolare i legumi che fanno tanto bene al suolo. Quanto costerebbe? Quali benefici ambientali potrebbe restituire in quanto tempo? Quale ruolo potrebbero giocare i sussidi europei? E quanto inciderebbe sulla qualità della dieta delle persone? Sarebbe un grande sforzo di immaginazione dare queste risposte, che farebbe tra l'altro scuola nell'antispecismo, dandogli uno sbocco politico forse più concreto. Potremmo anche dargli un nome, apparso di recente su un articolo di The Nation, il Bean New Deal. Stairs in the bar and heard your rolled up sleeves and your skull t-shirt. You said, why did you do it with him today? And sniff me out like I was Tanqueray. Cause you're my fellow, my guy. Hand me your Stella and fly. By the time I'm out the door, you tear me down like Roger Moore. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. Vogliamo segnalarvi il nuovo numero, quello di febbraio 2023, del mensile Altra Economia, in vendita nelle botteghe del commercio equo e solidale e reperibile ovviamente in rete, il quale dedica la copertina a un'inchiesta sugli allevamenti biologici di polli. Si tratta, scrive Luca Martinelli nell'articolo, di un modello produttivo industriale che punta a minimizzare i costi di produzione per garantire alla grande distribuzione organizzata un prodotto certificato low cost. E ancora, dice Martinelli, l'avvio di ogni nuovo allevamento intensivo non dovrebbe essere considerato solo un problema del territorio che lo andrà ad accogliere. Come denuncia Greenpeace, che da quasi 5 anni porta avanti una campagna per dire stop agli allevamenti intensivi, iniziata nell'aprile 2018 con la pubblicazione del dossier Meno è meglio, se vogliamo evitare gli impatti più devastanti nei cambiamenti climatici e rispettare l'accordo di Parigi, dobbiamo dimezzare produzione e consumo globale di carne e prodotti lattiero-caseari entro il 2050. Siamo ancora evidentemente nel campo della logica ambientalista e lontani da quel cambiamento di paradigma che dovrebbe portare a una diversa considerazione della vita animale, ma si tratta comunque di uno dei temi politici del momento, per quanto la politica istituzionale continui a ignorarlo. Sul punto, nei giorni scorsi è intervenuto anche David Quammen, il famoso giornalista scientifico autore di Spillover, il libro pubblicato in Italia da Adelphi sulla diffusione dei virus, che aveva anticipato di qualche anno l'esplosione di una pandemia, poi realmente avvenuta con il dilagare di SARS-CoV-2. Ebbene, in un'intervista al quotidiano Il Giornale, Quammen ha detto: «Una cosa che possiamo fare per ridurre il rischio è ridurre il nostro sostegno, in quanto consumatori, all'allevamento di animali su scala industriale per la produzione di carne. Un'altra cosa che possiamo fare è sostenere la scienza e lo sviluppo necessari per produrre sistemi di test in tempo reale per nuove infezioni virali ai controlli di sicurezza aeroportuali. Il nostro impatto sui diversi ecosistemi naturali della Terra, la cui interruzione porta alla diffusione del virus e all'estinzione delle specie, è il prodotto delle dimensioni della nostra popolazione moltiplicato per i nostri livelli di consumo. Dobbiamo ridurre entrambi. È possibile se ne abbiamo la volontà». Served us so well, served us so well. We traveled through hell, traveled through hell. Know how we fell, oh how we fell. Anche questa settimana il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni ci propone una ricetta dedicata a una delle notizie della puntata. Vi ricordiamo che Gabriele è autore di alcuni libri di cucina cruelty free. Il più recente è Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Animali notturni, e chi non lo è o non lo è stato? Avete presente quando rientrate a casa dopo aver fatto serata con qualche languorino che non è proprio fame ma una voragine nello stomaco? Ecco una soluzione rapida e golosa: crespelle di mezzanotte. 50 g di farina di ceci, 10 g di amido di mais, 150 g di farina, 400 ml di acqua, un pizzico di curcuma, 100 g di cioccolato fondente tritato, 80 ml di latte vegetale, 20 g di zucchero di canna, della granella di frutta secca, un pizzico di cannella, un pizzico di sale e olio di semi di girasole. Portate all'ebollizione il latte vegetale con lo zucchero di canna, quindi unite il cioccolato fondente tritato e il pizzico di cannella. Fate ritirare a fuoco lento per 2 minuti mescolando con una frusta. Togliete dal fuoco e lasciate raffreddare. Nel frattempo stemperate la farina di ceci, l'amido di mais, la curcuma e la farina con l'acqua e un pizzico di sale. Con una crepiera o una padella antiaderente, leggermente spennellata di olio, formate delle crepe piuttosto sottili. Fate cuocere di un bel color nocciola su entrambi i lati. Farcite le crespelle con la salsa al cioccolato, ripiegate al fazzoletto e decorate con altra salsa al cioccolato e, se lo gradite, della granella di frutta secca. Per chiudere vogliamo regalarvi una storia presa dal libro Cronache ribelli, almanacco di utopie reali, identità indelebili e rinnovata memoria. 250 storie di lotta, coraggio e amore. un testo pubblicato da CR Edizioni e che contiene storie sia di esseri umani sia di alcuni animali. Alla data del 27 luglio viene ricordato un episodio del 1982. Il gorilla Otto era stato regalato dal governo del Camerun agli Stati Uniti. Era stato chiamato così in onore del governatore dell'Illinois, Otto Kerner. Era stato strappato dal suo habitat naturale per essere rinchiuso all'Lincoln Park Zoo. Quello che segue è ciò che accadde il 27 luglio 1982 a partire dalle 9 di mattina. Estate piena, caldo torrido. Otto è appena stato trasferito nel piccolo recinto esterno alla sua gabbia, un'operazione che viene fatta quasi ogni mattina, necessaria per pulire la sua cella. Quando tutto è ormai concluso, Otto improvvisamente sfugge al controllo degli inservienti e si lancia, come un centometrista, verso la parete di vetro, alta 3 metri, che lo divide dal mondo. Aggrappandosi chissà dove la scavalca, un balzo e via. Non basta. Supera anche la doppia recinzione elettrificata. Gli inservienti dello zoo sono come pietrificati. Non sanno cosa fare. La fuga non era contemplata e può essere molto pericolosa. Una volta dall'altra parte, Otto corre a perdifiato verso la gabbia dei leoni. Nel frattempo gli addetti dello zoo caricano i loro fucili con il narcotico. È questione di secondi. Si sente uno sparo. Otto trema un istante. Il dardo sparato dal veterinario l'ha centrato in pieno. Ma Otto non va al tappeto. Punta la parete dell'edificio e si arrampica ancora una volta. Raggiunge il tetto. Quello che vede è bellissimo. Il mondo oltre lo zoo. La libertà di là dalle sbarre. Però mancano le forze. Otto lentamente si accascia. Crolla e precipita. Il sedativo ha fatto effetto. Resta a terra in un cespuglio sotto il sole di un'estate caldissima che brucia la speranza. Gli inservienti si avvicinano, si assicurano che sia fuori combattimento, lo immobilizzano e lo riportano in cella. La sua fuga è durata poco più di 15 straordinari minuti. Otto morirà di infarto nell'inverno del 1988 in isolamento perché è considerato pericoloso. Got your mother in a whirl. She's not sure if you're a boy or a girl. Hey, baby, your hair's all right. Hey, baby, stay out tonight. You like me and you like it all. You love dancing and you look divine. You love bands when they play it hard. You want more and you want it fast. Put you down, you say I'm wrong. You tack a thing, you put them on. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Never, you torn your dress. Never, your face is a mess. Questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Anna Granata, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Valentina Reggioli, Gianluca Masala, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Francesco Panier e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. She's not sure if you're a boy or a girl. Hey baby, it's all right. Hey baby, stay out tonight. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.